2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda venerdì 22-23 oppure domenica 13-30-14 con la nostra mini replica. Ci trovate ovviamente su internet, questo è uno dei programmi più scaricati di Radio 24, sul nostro sito internet www.radio24.it, ma soprattutto nella versione podcast potete utilizzare una delle tantissime applicazioni che trovate sugli App Store, quindi su Google Play Store e anche sullo store di Apple, sullo store di iOS, per scaricare una delle tante applicazioni che vi permettono appunto di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Il succo di tutto ciò è che potete scaricare settimana dopo settimana oppure anche ascoltare in streaming direttamente dal vostro smartphone la nostra puntata. E sono veramente migliaia le persone che ogni settimana fanno questo. Se volete maggiori informazioni, se non vi raccapezzate, quindi non trovate il modo per scaricare la versione podcast di 2024, scriveteci. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024@radio24.it. Come sempre iniziamo da alcune notizie in breve che abbiamo selezionato durante la settimana. Digital News. Iniziamo dalle notizie che arrivano da AudiWeb, che a marzo ha registrato 28,3 milioni di italiani che si sono collegati ad internet durante il mese. Nel giorno medio, quindi le persone che invece lo fanno con maggiore frequenza, i più assidui, sono invece 21,4 milioni. Di questi, 18,2 milioni si collegano da dispositivi mobili. Una notizia che racconta anche questa settimana come stia cambiando il mondo della TV. La finale di Eurovision, che è uno dei concorsi canori più attesi dell'anno, viene trasmessa quest'anno in diretta streaming sul canale YouTube di Eurovision. Sempre YouTube è la piattaforma scelta in Gran Bretagna da BT Sport per trasmettere in diretta streaming gratuita le finali sia di Champions League che di Europa League. Digital News. La competizione nel settore video è così elevata che Amazon ha lanciato un servizio che si chiama Video Direct nei 5 paesi dove ha un'offerta video, cioè Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Austria e Giappone. Il servizio è simile a YouTube e vorrebbe fare concorrenza a YouTube e permette di caricare i propri video gratuitamente ed eventualmente anche di guadagnare in base alle visualizzazioni che vengono effettuate di questi video. Chi carica contenuti di valore può addirittura scegliere di farsi pagare dagli utenti per vedere questi video, quindi non si possono vedere gratuitamente ma bisogna pagare, però ovviamente questa scelta viene fatta solo da chi carica contenuti particolarmente pregiati. Digital News. Ancora una notizia che riguarda Amazon, in realtà due notizie che riguardano Amazon. La prima è che ha lanciato anche sul Kindle un servizio che si chiama VoiceView, un sistema di text-to-speech, cioè che trasforma in voce un testo tramite un adattatore e un paio di cuffie. Quindi in questo modo è possibile ascoltare un ebook. Il sistema viene venduto insieme al Kindle Paperwhite, sul quale andrà fatto un aggiornamento software. Digital News. E sempre a proposito di Amazon e anche a proposito di cose audio, che quindi fanno concorrenza anche a Radio 24, a tutte le radio in generale, allora è stata lanciata ufficialmente in Italia la versione italiana di Audible, il servizio di Amazon specializzato in audiolibri e anche vari contenuti di intrattenimento audio. Il modello è su abbonamento, 10 euro al mese per ascoltare tutto quello che si vuole. Ne parleremo in modo approfondito la prossima settimana. Digital News. Un'ultima notizia riguarda WhatsApp, che ha pubblicato e ha messo a disposizione su internet le nuove applicazioni sia per Windows che per Mac, che sono naturalmente comode quando si sta al computer. L'applicazione desktop però deve essere sincronizzata e vive tramite quella sullo smartphone, quindi l'applicazione sullo smartphone che è collegata al nostro numero di telefono è quella più importante e principale, quindi l'applicazione desktop va sincronizzata con lo smartphone tramite un codice QR. Il codice QR, il QR code viene anche definito, è una sorta di codice a barre, molto simile al codice a barre, comunque è una fotografia bidimensionale a quadrettoni bianca e nera, la si inquadra con apposite applicazioni che riescono in grado di leggere i QR code e danno delle informazioni varie, possono mandarci verso un link oppure ci possono dare varie informazioni come quelle ad esempio che nel caso che abbiamo appena descritto collegano, quindi forniscono un codice che connette la nostra applicazione desktop sul computer all'applicazione su smartphone di WhatsApp, quindi noi possiamo scrivere i nostri contatti sul computer utilizzando sempre le nostre credenziali, il nostro profilo WhatsApp. Dunque, adesso i nostri approfondimenti di questa settimana, iniziamo dal cibo. In questi giorni c'è a Milano un appuntamento che si chiama Seeds and Chips. Seeds, i semi, i chips sono i chip del computer, quindi mettere assieme il cibo con la tecnologia. È la seconda edizione di questa manifestazione che intercetta un megatrend al quale stiamo assistendo da alcuni anni, cioè la tecnologia appunto al servizio dell'industria del cibo, l'industria agroalimentare. Marco Gualtieri è l'ideatore di questa manifestazione e ci ha raccontato che cosa sta succedendo. Tutta la filiera sta per essere impattata o è già impattata da delle innovazioni. Quindi non so, se partiamo appunto dall'agricoltura e anche che quello che è il nostro nome, sì, il seme, l'agricoltura di precisione, che vuol dire droni, sensori che consentono di intervenire in maniera mirata nelle coltivazioni agricole, quindi riduzione dell'utilizzo di acqua, minore utilizzo di pesticidi, di erbicidi, addirittura magari nessun utilizzo di questi, e è assolutamente un settore straordinario che ci potrà consentire di produrre cibo in maniera molto più sostenibile. Questo in particolare potrebbe essere, anzi non associato, ma è un pezzettino della Internet of Things. Assolutamente, l'internet delle cose applicato alla produzione agricola, e quindi i grandi colossi dell'informatica, delle tecnologie e delle reti sanno benissimo che qua c'è un'opportunità straordinaria, perché parliamo del più grande settore, la più grande industria del mondo, il cibo, qualche volta lo dimentichiamo, è il più grande settore del mondo, muove 5 trilioni di dollari e occupa il 40% di tutta la forza lavoro del mondo, e sappiamo che il cibo, la produzione di cibo è il più grande inquinatore a livello mondiale ed è la principale vittima di quelli che sono i cambiamenti climatici, quindi l'esigenza di intervenire è assolutamente nota, e Expo Milano 2015 ce lo ha raccontato in maniera molto precisa e molto puntuale. Quello che è straordinario sapere, ed è importante sapere, che oggi ci sono le tecnologie, quindi non ci dobbiamo allarmare, dobbiamo essere consapevoli e intervenire, ma sappiamo che ci sono le tecnologie per poter intervenire e modificare e i processi che sono in realtà gli stessi da centinaia di anni. Se volessimo continuare questa carrellata uscendo dal campo, perché immagino che poi in definitiva le nuove tecnologie legate alla produzione sono appunto Internet of Things, sensoristica che aiuta la produzione. Rimanendo sempre vicino, uscendo come hai detto tu dal campo, abbiamo tutte le tecniche alternative all'utilizzo del suolo per produrre frutta e verdura, quindi idroponica, aeroponica e acquaponica. Vuol dire utilizzare dei metodi in cui non c'è bisogno della terra, quindi anche in questo caso si usa meno acqua, non si usano fertilizzanti o pesticidi e si coltiva la frutta e la verdura in maniera diretta. Chi è stato a Expo Milano 2015 ha avuto la possibilità di conoscere queste tecniche, se si ricorda, non so, il padiglione degli Stati Uniti o di Israele o del Belgio avevano le pareti in idroponica, quindi il vertical farming. Questo è un altro settore straordinario che può non solo risolvere in parte le grandi sfide della produzione di cibo per tutti nei prossimi anni, ma è un settore che può creare rigenerazione di quartieri urbani, di aree industriali abbandonate e la creazione di nuovi posti di lavoro. Per sintetizzare, che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi si possono andare a creare in aree dismesse, dove nessuno magari insiederebbe più un sito industriale di tipo tradizionale, oppure nessuno magari andrebbe a vivere in questi posti posti si possono creare delle situazioni di produzione di cibo attraverso le tecniche, la tecnologia idroponica. Quindi è una cosa straordinaria, si può rigenerare vita e quindi produzione di cibo e anche posti di lavoro. Proseguendo, a questo punto non parliamo più di produzione, parliamo forse di distribuzione, di logistica. Ma prima parliamo magari di trasformazione. Ah, di trasformazione. Trasformazione, per esempio le stampanti 3D del cibo, che potrebbero far ridere i più, ha fatto ridere anche me. All'inizio pensavo che potessero essere qualcosa di divertente, di simpatico. In realtà si sta aprendo uno scenario in cui le stampanti 3D del cibo potranno fare veramente tante cose. Faccio anche qui un esempio molto pratico. Potranno risolvere i problemi alle persone che soffrono, di problemi per deglutire, e oggi, grazie allo sviluppo delle stampanti 3D, si potranno preparare dei cibi che rispondono alle loro esigenze nutrizionali, ma anche di soddisfazione e non dover ricorrere magari soltanto a alimentazione di liquidi e poi tante altre cose. È proprio una cosa nuova. Qui a Seeds & Chips presentiamo due o tre delle stampanti 3D più avanti, più importanti al mondo, ma anche in questo caso parliamo veramente dell'inizio, la nascita di un settore nel quale c'è tutto ancora da costruire, da sviluppare. Il mio è anche un invito quindi ai makers, ai creativi, ai giovani ragazzi che hanno delle idee e vogliono creare delle start-up, di andare a capire e a studiare che cosa si può fare, perché probabilmente dalle loro idee si può trasformare in qualcosa di importante. A questo punto usciamo veramente dal territorio più tipico di chi produce cibo, distribuzione, anche qui sta succedendo di tutto. Sì, assolutamente. La distribuzione vuol dire tante cose, il food delivery, vuol dire le piattaforme di e-commerce per il cibo, vuol dire anche, non so, vediamolo per i ristoranti. Oggi chi apre un ristorante può non fare i conti del suo, diciamo, conto economico, del suo business plan solo sui coperti che ha in sala, ma può pensare anche di preparare del cibo che poi viene consegnato direttamente a casa. È un fenomeno che all'estero sta esplodendo e che anche in Italia ha delle indicazioni di grande crescita, ma poi soprattutto l'e-commerce. Io dico sempre, l'innovazione e la tecnologia saranno i migliori alleati dei piccoli produttori e della valorizzazione delle tradizioni. Oggi un piccolo produttore agricolo può farsi conoscere e distribuire i suoi prodotti utilizzando una piattaforma di e-commerce, piccola, magari locale o nazionale, o anche entrando in quelle internazionali. È notizia di poco tempo fa dell'apertura, non so, di Alibaba al mercato agroalimentare italiano. Ecco, se vogliamo competere dobbiamo sfruttare questi mezzi, dobbiamo essere dentro queste piattaforme e parlare il linguaggio dei consumatori che stanno definendo quali sono le nuove regole di ingaggio. Le idee, i progetti e le start-up che fanno riferimento al cibo sono veramente tante. Dai droni, ne abbiamo parlato, alla sensoristica applicata alla produzione, ne faceva riferimento Marco Gualtieri, alla logistica con un vero e proprio boom di servizi di consegna di vario genere. Gli esperti parlano di food delivery, la consegna. Ne abbiamo parlato anche a 2024, soprattutto nelle città e soprattutto in Italia, nella città di Milano, ci sono varie forme di servizi di consegna. Direi che ne nascono quasi ogni mese, dal semplice ragazzo che col motorino o con la bicicletta ti porta la pizza, il sushi, l'hamburger o altri cibi, magari il tutto con un servizio gestito da un'app, quindi dal telefonino si fa tutto, da chi ti consegna invece piatti di ristoranti più pregiati, quindi un servizio più curato, chi consegna gli ingredienti per preparare la cena. Tu magari te la vuoi preparare la cena e ti arrivano a casa gli ingredienti. Insomma, ci sono tantissime proposte proprio in questo ultimo ambito, cioè quello di chi consegna gli ingredienti. C'è, cioè, ad esempio chi consegna solo gli ingredienti base, chi consegna invece semilavorati da importanti chef, quindi che ti arrivano a casa magari in atmosfera controllata o sottovuoto, refrigerati. Oppure c'è un'idea come quella di Barilla, che prende spunto da quello che succede nel caffè, dove compro la macchina per fare il caffè e poi mi compro le cialde per fare il caffè espresso. Matteo Gori è il Managing Director di Cucina Barilla. Cucina Barilla è un'idea nata un po' di anni fa per provare a realizzare un sogno. E il sogno è quello di dare alle case degli italiani, per iniziare, e poi anche di altri paesi, qualcosa che cucini al posto nostro, però che cucini davvero, partendo dagli ingredienti e che ci metta il tempo che ci vuole, liberandosi di tutte le incombenze. Voi nell'autunno scorso avete presentato un concetto, che è il primo concetto al mondo che combina forno e un kit con degli ingredienti. Mm-hmm. Beh, innanzitutto come nasce questa idea? Perché soprattutto avete lanciato questa idea? E poi spiegaci anche come funziona. Certo. Beh, allora, l'idea nasce guardando un film che è Ritorno al Futuro 2. Ritorno al Futuro 2 ci faceva vedere come sarebbe stato il 2015, ma il film è del 1989, quindi qualche anno fa ci siamo detti in barilla, perché non proviamo a realizzarlo davvero il 2015 che si erano immaginati Zemeckis e Spielberg? E l'idea nasce anche dal guardare i trend e le abitudini di consumo, cioè sempre più persone hanno voglia di mangiare qualcosa di cucinato fresco, ma non sempre hanno il tempo, la voglia o l'energia per cucinarlo davvero loro, e quindi magari cercano qualcosa o qualcuno che lo possa fare al posto loro. Da lì è nata l'idea di cucina Barilla all'interno di Barilla, e poi ci siamo appoggiati a un partner tecnologico come Whirlpool per produrre il forno e poi commercializzarlo. E come funziona questa accoppiata forno ingredienti? Ma è molto semplice in realtà. Nei kit ci sono gli ingredienti perfetti per una ricetta, perfetti in quantità e in qualità. Quindi metti gli ingredienti del kit all'interno dell'accessorio indicato, scansioni, nel senso che fai leggere il kit, che ha un'etichetta in uno dei suoi due lati, al lettore RFID del forno. A quel punto il forno scopre tutta la ricetta, la impara istantaneamente e poi la cucina al posto tuo. Aggiunge l'acqua, mescola, cuoce per tot minuti a una certa temperatura e quant'altro. Quindi diciamo che più che un forno è un robot. Sì, esattamente. È di base un forno microonde combinato, quindi lo puoi usare anche nelle sue funzioni standard, e poi on top, diciamo in aggiunta, grazie ai kit Cucina Barilla, diventa un robot da cucina vero e proprio. Il concetto è un concetto, potrei dire, mutuato da chi ti vende la capsula del caffè e ti ha venduto in principio la macchina del caffè. Esattamente, diciamo il concetto parte da una cosa come la convenience tirata all'estremo, cioè qualcosa, il kit, che possa essere consumato e gestito da un qualcosa che è il forno, che è invece un bene durevole e che possa soprattutto permettere al forno di lavorare da solo, in totale autonomia. Quindi il vostro business sarà vendere questi kit con degli ingredienti? Esatto, diciamo in prima istanza il business è quello di far sapere che esiste Cucina Barilla e di mettere, diciamo, nelle case di più persone possibili il maggior numero di forni possibile, e poi ovviamente di lavorare sulla frequenza di consumo di questi kit. Ci fai un esempio di come sono fatti questi kit? Sì, volentieri. Per esempio nel risotto alla milanese, che è un kit per due porzioni, c'è del riso Carnaroli, riso che compriamo in Piemonte, in Monferrato, dove è la patria ovviamente del riso Carnaroli, e c'è un sugo disidratato, un sugo in polvere con i veri pistilli di zafferano che si vedono, poi si sentono nel gusto, ma si vedono nella cottura. Oppure ci sono i kit come la pizza, il pane e la focaccia, dove dentro al kit ci sono soltanto farina e lievito di birra disidratato. Non c'è niente di chimico, non ci sono conservanti, non ci sono coloranti, e poi il forno fa il resto. Quindi diciamo che l'alternativa, però sicuramente di minore qualità, è: io compro un prodotto surgelato e lo scongelo e in pochi minuti è pronto. Sì, questa è una delle alternative, ma poi usandolo e facendolo usare alle persone stiamo scoprendo che gli usi sono anche molto più vari di quello che ci eravamo immaginati. A volte addirittura il kit ti permette di fare una parte della cena o del pranzo e tu nel frattempo ti dedichi all'altra parte, quindi mentre Cucina Barilla fa il risotto tu puoi preparare l'insalata o il formaggio o la frutta o viceversa, lui può occuparsi del pane e tu puoi fare un primo piatto, quindi ti libera del tempo che puoi spendere in cucina oppure fuori dalla cucina, perché magari hai voglia di rilassarti un po' o di passare un po' di tempo libero. E questo non è un forno connesso, visto che c'è una grande moda e ultimamente anche noi in questa trasmissione abbiamo parlato di elettrodomestici connessi. Qui non stiamo parlando di connessione. No, diciamo questa prima versione, quella che si trova attualmente in vendita, non ha la connessione. Però ci piace pensare che è comunque un po' smart, cioè il fatto di poter dialogare con un kit, in realtà il kit parla e il forno ascolta, come nei migliori dialoghi, li rende tutti e due, diciamo, un pochettino smart, anche se la connessione in questo momento manca, speriamo che sia nelle edizioni successive. Senti, a proposito di innovazione, voi avete questo reparto innovazione che, oltre a guardare i film per capire che cosa succederà nel futuro, studia alcuni trend, alcune dinamiche. Che cosa esiste già che cosa state per lanciare sul mercato, cioè a proposito di innovazione tecnologica? Ma una cosa di cui si è parlato in questi giorni, è stata anche nelle principali testate, nei principali quotidiani, è la nostra pasta fatta con la stampante 3D. Quindi questo è un primo esperimento, ancora a un livello molto embrionale, però con già dei risultati concreti, in cui la pasta viene prodotta dalla stampante 3D, la si può cucinare, può avere la forma che si preferisce. A che cosa potrebbe servire la stampante 3D per la pasta? Cioè io non faccio prima a comprarmi la scatola con la pasta dentro? Ma diciamo che ci sono forti trend di personalizzazione, cioè sempre di più le persone vogliono qualcosa fatto a loro misura, sulla loro forma, e quindi da questo punto di vista ci potrebbero essere delle opportunità in ambito ristorazione, ma magari anche in ambito domestico. Allora, un altro grande fenomeno che lega tecnologia e cibo è quello delle piattaforme o dei social network per la scoperta di nuovi cibi, di nuove esperienze culinarie, anche attraverso il turismo, del social eating, cioè di persone che vanno a cena da altre persone e si incontrano proprio grazie ad internet. Questo è un fenomeno di cui ci siamo già occupati, di cui ci occuperemo in altre occasioni, ma che anche in questo caso presenta idee, progetti, start-up, se non ogni mese, comunque ogni anno qualche cosa di nuovo c'è. È un fenomeno sicuramente molto interessante che va inserito nel grande fenomeno dei social network e della sharing economy. C'è poi un trend che è quello della tracciabilità. Quante volte abbiamo sentito parlare di tracciabilità? Con la tecnologia si possono fare tante cose. Una idea è quella che è stata presentata a Seeds and Chips a Milano da Viveat, è scritto Viveat, Viveat, dal verbo mangiare all'inglese. Marcello Gamberale Paoletti è il fondatore, nonché l'amministratore di Viveat. Attribuiamo ad ogni prodotto, che può essere alimentare ma anche non, una sua identità digitale univoca, cioè un passaporto legato a quel prodotto specifico che incorpora tutte le informazioni sulla produzione di quel prodotto, ma anche tutte le informazioni sulla storia di vita di quello specifico prodotto, finalizzate a offrire al consumatore tutti quegli elementi utili a determinare una scelta di acquisto. Con questo Product Passport poi si possono veicolare anche altri servizi, assistenza, servizi di marketing, concorsi, quindi è un mondo che si apre attraverso uno smart pack, un tag NFC, un QR code apposto sul prodotto stesso, che aumenta, diciamo, quella che è l'esperienza del prodotto, dandoci un contenuto nuovo. Non bastava il codice a barre che tutti i prodotti hanno? Tutti i prodotti hanno un codice a barre, ma tutti i prodotti uguali tra di loro hanno un codice a barre uguale. Invece il nostro sistema attribuisce un'identità digitale univoca a ogni prodotto. Ciò significa che due prodotti uguali tra di loro, due scatole da 500 grammi di penne rigate, avranno due codici diversi. Quindi noi individueremo un ciclo di vita differente per ognuno dei due prodotti. Ma che senso ha dare un'identità univoca a prodotti che sono uguali, tipo appunto le penne di Popus oppure le bottiglie di vino? Tantissimi prodotti sono fatti in serie, quindi sono tutti uguali. Due motivi. Uno è la tracciabilità. Dal momento in cui il prodotto lascia i magazzini del produttore, ogni confezione viene distribuita in diversi posti del mondo. Come faccio io a capire che la confezione che ho venduto al mio importatore cinese è stata distribuita effettivamente in Cina? Nel momento in cui io so quali confezioni ho venduto a lui e me le trovo su un altro mercato, mi rendo conto che qualcosa, per esempio, non ha funzionato. Il secondo elemento è l'anticontraffazione. Un QR code è facilmente copiabile, è la stampa di un codice bidimensionale. Quando io attribuisco un codice univoco ad ogni confezione, se il contraffattore prende una delle mie bottiglie, per fare un esempio, copia un'etichetta e ne fa 10.000. Nel momento in cui una tra le etichette che io ho distribuito è stata copiata, io, andando solo a guardare statisticamente le letture che riceve, mi rendo conto subito che c'è un problema, e quindi si tratta di un sistema di sicurezza per impedire che si verifichino questi tipi di fenomeni. Per dare vita a questa identità io devo usare uno smartphone, giusto? Sì, Assolutamente sì, il progetto nasce appunto cavalcando quello che è ormai un trend straordinariamente consolidato. Parliamo di 3,3 miliardi di smartphone oggi nel mondo, nel 2020 saranno quasi 6 miliardi, quindi ormai è un telecomando che abbiamo in tasca con cui facciamo di tutto e lo usiamo 144 volte al giorno secondo gli ultimi studi per fare tutto. Certo, quindi io avvicino al prodotto il mio smartphone o con un lettore, con un'app che legge i codici QR code, oppure basta avere un NFC Android in questo momento per dar vita, diciamo, alle informazioni di questo prodotto che mi collegano ad un sito internet, giusto? Sì, una delle caratteristiche più importanti della nostra piattaforma è che non serve un'applicazione mobile per utilizzarla, non devi scaricare né un'applicazione dell'azienda né una nostra applicazione, è web-based, le informazioni sono localizzate tramite questi URL univoci per ogni singolo prodotto, quindi con una generica applicazione di lettura QR code accedo a un contenuto web-based o ci accedo via web, anche da desktop per esempio. Una cosa che mi sembra interessante sottolineare è che a Vivit stanno collaborando con Blockchain Lab, che è un diciamo un centro di ricerca, un gruppo di ricerca molto importante a Milano, che appunto si occupa di blockchain e per utilizzare la tecnologia blockchain anche in questo progetto di tracciabilità, in questo servizio di tracciabilità che vende Vivit, che ha progettato e creato Vivit. Mi sembra molto interessante, visto che ne abbiamo parlato anche recentemente a 2024, la tecnologia blockchain si presta molto bene a far da tramite, a fare da piattaforma di scambio tra una persona che vuole, tra ad esempio contratti, tra transazioni, ma anche fra ad esempio persone che vogliono comunicare l'identità di un prodotto e persone che vogliono sapere qual è l'identità. La tecnologia blockchain è sicuramente uno strumento molto robusto per mantenere integra questa informazione, quindi dovrebbe aumentare di molto la sicurezza di questa informazione, di modo che chi vuole sapere se è vero che quel prodotto è autentico, il grado di certezza aumenti fino ad essere quasi impossibile da falsificare. Secondo una ricerca dell'Università Bocconi in collaborazione con Mastercard, se alle attuali modalità di pagamento dei servizi di trasporto pubblico, cioè il biglietto classico, l'abbonamento mensile, l'abbonamento annuale, si affiancasse la possibilità di pagare direttamente con una carta di credito contactless, oggi ci sono dei tornelli che permettono con gli abbonamenti di passare l'abbonamento e quindi sono senza contatto, e ci sono molte carte di credito che funzionano così, basta appoggiarle sul POS, e pensate che in Italia ce ne sono già oltre 30 milioni, e quindi si potrebbe tranquillamente, abilitando i tornelli ma anche il sistema a bordo dei bus su cui io faccio passare il mio abbonamento, potrei abilitarlo, aprirlo anche alle carte di credito contactless. Allora, secondo questa ricerca ci sarebbero vantaggi sia per i passeggeri, perché io la carta di credito ce l'ho già e ce ne sono appunto più di 30 milioni in Italia, ma ci sarebbero dei vantaggi anche per le società di trasporto, e visto che molte società di trasporto sono pubbliche, se queste risparmiano soldi, risparmiamo anche noi cittadini, comunque a cascata risparmia tutta la collettività. Di questo ho parlato con Oliviero Baccelli, che è direttore del CERTET Bocconi, che è il centro studi che si occupa all'interno dell'Università Bocconi di trasporto locale e turismo. I risultati preliminari permettono di evidenziare quali sono i benefici per un tipo di utenza non sistematica, cioè si sta parlando degli utilizzatori quali turisti, in particolare turisti internazionali abituati ad utilizzare le carte di credito, piuttosto che persone che si muovono saltuariamente sul settore del trasporto, per cui si tratta di un target specifico che normalmente prima di utilizzare il sistema deve comprendere gli schemi tariffari, per acquistare il biglietto, trovare la biglietteria, comprendere se il biglietto acquistato è esattamente quello corretto. Ecco, l'idea generale è che semplificando tutta questa serie di aspetti che prendono tempo e che richiedono energie che a volte scoraggiano gli utilizzatori saltuari, quali potrebbero essere i benefici per questa tipologia di utenza e anche per le imprese di trasporto, perché potrebbero avere un sistema di commercializzazione dei propri biglietti il più possibile semplificato, perché l'idea è di utilizzare un sistema, quello della carta di credito contactless, che è già nelle tasche di alcune decine di milioni di utilizzatori in Italia, per entrare e uscire dalla metropolitana, dalla ferrovia, dagli autobus o dai tram, semplicemente appoggiando la propria carta di credito contactless. Quindi l'idea è: quanto vale questa serie di risparmi per l'utenza, per le imprese di trasporto e per la collettività in generale, che trae beneficio dal fatto che la gente passi dall'utilizzare la propria auto o i propri taxi a un sistema di trasporto pubblico che quindi ambientalmente è meno impattante. Questo già succede in alcune città europee. Io, turista, uomo d'affari, vado ad esempio a Londra, che è forse l'esempio a cui anche voi avete fatto riferimento, posso o comprare il biglietto, comprare una carta, ricaricare una carta che serve per girare per la rete del trasporto pubblico, oppure posso utilizzare la mia carta di credito contactless. Quanto è diffuso questo sistema in Europa? Il sistema è diffuso non solo in Europa ma su scala mondiale, sono oltre una cinquantina le realtà che hanno cercato di promuovere questo tipo di semplificazione. Il caso più interessante è partito nel settembre del 2014 a Londra, dapprima sul sistema prettamente urbano per poi allargarsi all'intera rete dei trasporti del sud-est, che comprende anche alcuni servizi da e per l'aeroporto di Gatwick ad esempio, piuttosto che tante direttrici di autobus extraurbano, ma in Argentina anche si sta diffondendo in maniera molto forte, così come sul sistema di relazione fra la grande città di Mosca e il proprio aeroporto principale, per cui sono diversi i casi pilota. L'idea della ricerca è di comprendere da quale tipologia di servizio avviare iniziative pilota anche in Italia, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del nostro mercato in termini di diffusione dell'utilizzo delle carte, tipologia di utenza del servizio e costi di implementazione di questo servizio, che richiede dei software specifici per i validatori, per i tornelli e dei sistemi di gestione delle informazioni sottostanti, che permettono attraverso una serie di algoritmi di avere la certezza che il prezzo pagato dal passeggero sia il migliore possibile, il più adatto, e quindi se viene utilizzata la metro per più volte al giorno è il biglietto giornaliero che viene addebitato poi sulla carta di credito, piuttosto che su scala settimanale. Allora, il vantaggio mio come passeggero è molto evidente, quindi non devo pensare di comprare il biglietto, capire quali sono le tariffe, uso la mia carta di credito e vado, appunto con il vantaggio che il sistema mi applica la tariffa migliore. Quali sono i vantaggi? Sono molti, ne abbiamo già accennato brevemente, per l'industria del trasporto pubblico, che poi significa anche per la collettività e quindi anche per me cittadino che pago le tasse. Il primo vantaggio è di avere un sistema molto semplice che incentiva la domanda, per cui può esserci una domanda aggiuntiva e quindi dei ricavi aggiuntivi per le imprese di trasporto pubblico locale. Ma in realtà nella prima fase di implementazione sono costi aggiuntivi che devono essere affiancati ai normali sistemi di commercializzazione dei biglietti. Solo una volta che questo tipo di sistema ha preso piede, che quindi ci sono delle economie di scala nell'implementazione, ci possono essere poi dei benefici particolarmente consistenti, e a Londra sono andati molto oltre le aspettative iniziali in termini di riduzione di costi per le imprese di trasporto, che si trova appunto a non dover gestire biglietterie automatiche, possibili frodi, possibili forme di evasione, possibili furti alle biglietterie di varia natura, e poi si trova di fronte a un sistema che permette anche una miglior gestione degli schemi tariffari delle imprese di trasporto, che possono essere schemi tariffari incentivanti, ad esempio nell'utilizzo delle ore di morbida, e quindi stimolare target di domanda aggiuntivi che quindi permettono di avere un miglior rapporto fra la copertura dei costi del servizio offerto e il sistemi di ricavi provenienti dai biglietti. Questo è il tema chiave: aumentare i ricavi provenienti dai passeggeri e ridurre la contribuzione pubblica del sistema del trasporto pubblico. Tema particolarmente rilevante in Italia, dove, fatti 100 i costi del trasporto pubblico, solo 35 sono coperti dai biglietti e 65 dalla fiscalità generale, quindi dai cittadini che pagano le tasse. Questa ricerca ha preso come punto di riferimento l'esperienza londinese, che è stata citata anche durante l'intervista, dove appunto si può utilizzare la carta di credito contactless sul sistema di trasporto pubblico, e parla di un beneficio complessivo di 200 milioni di euro in 10 anni se fosse applicato, se questo sistema di pagamento fosse applicato al trasporto pubblico nell'area metropolitana di Milano e sul Malpensa Express, che è il treno che collega la città di Milano da un paio di stazioni fino all'aeroporto di Malpensa. Dunque, ovviamente questo è uno studio realizzato assieme a Mastercard, quindi Mastercard ha tutto l'interesse a dire che questa implementazione è utile, però devo dire, se i benefici sono sia per i cittadini che per le aziende di trasporto, mi sembra una buona notizia. Io sono un grande utilizzatore di moneta elettronica, sempre pochissimi soldi nel portafoglio, pochissimi soldi in contanti, e trovo che questi sistemi diano grandi benefici, soprattutto in termini di sicurezza. Si è molto più sicuri se si ha la moneta elettronica piuttosto che la moneta di carta, che è una cosa un po' anacronistica. Facciamo girare della carta o del metallo quando potremmo far girare dei bit sulle reti, risparmiando un sacco di soldi, perché il denaro contante di carta o di metallo ha un costo di produzione, un costo di gestione, un costo di trasporto che poi grava sulla collettività. Quindi di fatto poi tutti gli stati pagano soldi alle varie zecche che stampano moneta, che siano euro, che siano dollari o che siano altri tipi di monete. Poi ci sono naturalmente dei costi che devono essere abbassati, ma l'Unione Europea sta abbassando i costi di transazione sulla moneta elettronica, ma devo dire che ci sono anche alcune start-up che stanno abbassando di molto e addirittura azzerando, in modo particolare quando si fa passaggio tra una persona all'altra, quindi pagamenti peer-to-peer, il costo di transazione. Abbiamo parlato a 2024 ad esempio di Satispay, che è una startup e un progetto che a me piace molto, ma comunque l'importante è il concetto, al di là di un singolo brand. In quel caso, ma anche in altri casi, se si fa un passaggio di moneta tra due persone non ci sono costi di transazione. I costi di transazione anche per gli esercenti sono molto bassi, e quindi si stanno trasformando le cose anche in questo mercato. Io continuo a stupirmi, ma veramente tutte le volte che vedo delle file al casello dell'autostrada per pagare in contanti, mi stupisco e a volte mi viene anche da offendere queste persone, perché non capisco francamente per quale motivo uno deve fare la fila per pagare in contanti, quando ormai il bancomat o altri strumenti di pagamento sono gratuiti o molto molto economici. Comunque il bancomat è gratuito in moltissimi casi. Insomma, spero di non offendere gli ascoltatori di 2024, che spero siano dei grandi utilizzatori di moneta elettronica e anche dei grandi sostenitori. Speriamo. Dunque, adesso ci fermiamo, una breve pausa per 2024, riprendiamo tra pochissimo. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Siamo in onda venerdì tra le 22 e le 23, domenica tra le 13 e 30 e le 14, ma ci trovate sempre su internet, sul nostro sito internet oppure tramite le applicazioni, tantissime applicazioni per il vostro smartphone. Potete scaricare e ascoltarci quando volete nella nostra versione podcast, tra l'altro con tutte le nostre interviste in versione integrale. 2024 è l'unico programma che vi permette di ascoltare nella versione podcast, nella versione digitale, le nostre interviste e quindi molti più minuti a disposizione. Dunque, a proposito di trasporto locale, ne abbiamo parlato fino a poco fa, una delle cose che in alcuni paesi si sta già facendo è la gestione dinamica delle tariffe. In alcuni orari il biglietto viene venduto a prezzo pieno, in altri ti faccio invece lo sconto. Uno sconto c'è anche quando si compra il biglietto con largo anticipo. La stessa cosa che accade, ormai siamo abituati, per le compagnie aeree, specialmente le low cost, i treni, i bus, gli hotel. Insomma, ci sono tantissimi servizi che hanno una gestione dinamica dei prezzi. Una startup di Milano punta ad introdurre questo tipo di gestione, cioè la gestione dinamica del prezzo, anche nei biglietti del cinema, del teatro e di eventi in genere, eventi sportivi, di intrattenimento, concerti, eccetera, eccetera. Saluto Federico Quarato, che è il CEO, l'amministratore delegato, nonché cofondatore di Dynamitic. Benvenuto a 2024. Grazie. Allora, quando noi ci sediamo su un aereo, molto probabilmente il nostro vicino non ha pagato il biglietto quanto l'abbiamo pagato noi. Magari lo ha pagato di più, oppure è stato più fortunato e l'ha pagato di meno. La stessa cosa alla quale noi siamo appunto abituati quando saliamo su un aereo, quando compriamo un biglietto aereo, oppure di altri settori che già applicano queste dinamiche di prezzo variabili, ecco, la stessa cosa non succede quando andiamo al cinema. Il nostro vicino di poltrona al cinema oppure a teatro ha pagato normalmente lo stesso prezzo di quanto abbiamo pagato noi. Voi invece dite: in questi settori possiamo applicare delle dinamiche alle quali siamo già abituati in altri segmenti di mercato. Spiegaci un po' come fate, quali sono i parametri sui quali vi basate. Ci sono decine di variabili che vengono analizzate, possiamo fare alcuni esempi, sicuramente il meteo, quindi il comfort di una sala cinematografica in una sera d'inverno con la pioggia a Milano va apprezzato in una maniera diversa rispetto a una serata al chiuso in una giornata particolarmente piacevole ed estiva, così come la reputazione che una pellicola ha sul web, quindi, o soprattutto anche sui giornali, sulla stampa, quindi quello che si dice di un film deve in qualche modo avere un impatto, ma anche l'anticipo d'acquisto, perché prenotare deve essere premiato e non deve essere tassato, no? Perché io che organizzo un evento o che gestisco una sala traggo beneficio dal fatto di sapere in anticipo quanta gente verrà a usufruire dell'evento. Queste sono alcune variabili, poi ci sono sicuramente i dati storici, trend di vendita, perché poi alla base c'è ovviamente la matematica e la statistica. Ovviamente ci sono delle variabili che sono più legate al tessuto sociale, alla propensione al consumo, quindi eventuale presenza di competitor. Ci può essere un cinema all'interno di un'area, zona a traffico limitato, che la domenica magari può soffrire del fatto che le persone con l'auto non possono arrivare alla location. Possono succedere degli eventi, degli agenti esogeni che in qualche modo possono andare a impattare la curva di domanda, e quindi anche andare al cinema non può essere un'esperienza che ha sempre lo stesso prezzo. L'importante è che gli esercenti capiscano che c'è un range da cui non andare oltre. Il Cinema Plinius, che è A Milano, che è il primo che utilizza il vostro sistema e sta facendo una sperimentazione proprio da questo fine settimana. Esatto, sì, a partire da oggi, venerdì 13, per tutti i venerdì di maggio e giugno, proverà questo sistema, lo fa senza toccare il prezzo massimo di 8,50 euro. Ma quello minimo sì, cioè invece cambia il prezzo a ribasso. A scalare a ribasso, sì. Esattamente, proprio perché l'intento non è quello di chiedere ai consumatori un prezzo più alto, ma quello di individuare qual è il prezzo che un consumatore può spendere per quella proiezione. Ma secondo te si può arrivare anche al punto di fare un prezzo diverso in base al posto che io scelgo? Assolutamente sì. Che ancora non si fa. Cioè, se io sono alla quarta fila e il film non è che lo veda benissimo, potresti dire: vabbè, se proprio ci vuoi andare ti faccio pagare molto poco. Se vai in una fila al centro perfetto del cinema te la faccio pagare di più. E io devo dire che pagherei di più per essere lì, proprio perfettamente. Questo è il punto. Questo è il punto. Tu mi hai detto: io pagherei di più. È quello che si va a individuare con un algoritmo. bisogna andare a capire laddove tu puoi pagare di più e quindi non ti lamenti nemmeno, perché se la tua propensione al consumo è di spendere quella cifra, perché quello è il posto che vuoi, allora è contento chi offre quel biglietto e chi lo acquista. È come sul treno, io sul treno voglio uno specifico posto che è il primo del vagone. Se la compagnia lo capisce dai miei acquisti e mi propone quel posto a un prezzo più alto, francamente io sono disposto a pagarlo, certo, perché quello è il posto che voglio. Senti, voi fate questi calcoli in maniera anonima o potreste addirittura arrivare a fare dei prezzi personalizzati a persone che sono registrate su un sito e che quindi, che ne so, il sito dell'esercente del cinema o il sito della compagnia di treni eccetera eccetera conosce molto bene, e quindi io potrei, dopo che mi sono registrato, dire: guarda, io sono disposto il martedì sera andare in quel posto preciso del cinema e pagare tot. Sì, sicuramente. Tot che questo può essere anche al ribasso, eh? Cioè, potrei anche dire: voglio un biglietto a 5 euro perché, certo, sono disponibile a venire martedì sera. Io credo che questo sia in qualche misura il futuro del consumo in questi ambiti, sempre più personalizzato. Sì, noi oggi saremmo in grado di farlo, ma non lo facciamo perché perché ci sono anche poi tematiche di privacy, certo, di certo, gestione dei dati, in cui oggi ancora non abbiamo nemmeno iniziato a pensare. Anonime statistiche, assolutamente, fondamentalmente. Assolutamente sì. Certo. Per noi certo il cliente è segmentato, ma di fatto il cliente in qualche modo è già segmentato. Parliamo del cinema. Quando tu offri una giornata particolare scontata, come può essere il mercoledì a 3 euro, 3,50 euro, di fatto quel mercoledì a 3,50 ha quella clientela che tornerà sempre il mercoledì, perché la sua propensione al consumo è quella di spendere 3,50 euro, e il mercoledì è un giorno che li favorisce in qualche certo, modo. Certo, ad esempio io non ci vado perché c'è troppa gente. Corretto. Sono disposto a pagare un poco di più e andarci martedì, c'è meno gente. Certo, senti, quali sono gli altri settori che secondo te possono beneficiare di questa tecnologia? Abbiamo parlato di aerei, treni, bus. Oggi voi ci parlate, parlo di bus extra urbani privati. Ci sono delle compagnie che fanno tratte anche internazionali, stanno crescendo molto anche in Italia, quindi questo è un settore in crescita. Abbiamo citato gli hotel. Che cos'altro secondo te? Sicuramente il turismo fa prezzi dinamici e può spingere ancora sull'acceleratore. Penso agli stabilimenti balneari, alberghi, che sì, già so che qualcuno ad esempio lo fa nel mondo dello sci. Abbiamo intervistato una persona qualche mese fa che sta proponendo una cosa specifica per il mondo dello sci. Sì. È un esempio che mi viene in mente adesso. Assolutamente sì. Sì, e noi abbiamo la fortuna di rivolgerci a un mercato molto più ampio e non uno così di nicchia. Noi prendiamo tutto il ticketing, che lascia 350 milioni di biglietti invenduti ogni anno. Pazzesco. Quindi abbiamo un prodotto che già soddisfa un mercato molto ampio, un mercato da 5,7 miliardi. Quindi di fatto oggi noi siamo soddisfatti di parlare, anche perché siamo una startup, siamo soddisfatti di parlare di ticketing. Certo. Di fatto pensare alla teoria del pricing dinamico ci permette di pensare anche un po' più in là. Penso alla grande distribuzione che fa sicuramente prodotti, vende anche prodotti deperibili che in qualche modo potrebbero ingegnerizzare ancora di più il proprio prezzo tramite algoritmi. Credo che già lo facciano, lo fanno già bene, perché certo, se tu vai in alcuni orari vedi che ne so, la mozzarella viene scontata molto. Sì, questo le grosse catene lo fanno e lo fanno anche molto bene. Però tu dici con gli algoritmi si può fare ancora meglio. Assolutamente sì. Certo. Senti, il vostro servizio come viene fatto pagare? Cioè voi su cosa guadagnate? Sui biglietti venduti? Cioè sui biglietti magari che riuscite a far vendere in più rispetto allo storico, oppure è un abbonamento, come funziona? Anche qui abbiamo proposizioni commerciali molto diverse, perché ci rivolgiamo a clienti molto diversi, quindi da un parco di divertimenti di dimensioni molto grandi con flussi di clientele alte e fatturati enormi a piccoli esercenti cinematografici che magari hanno una sala, a squadre di calcio che vanno dalla Serie A alla Serie B, che sono mondi tra di loro molto diversi. Quindi abbiamo differenti approcci commerciali a seconda di come anche veniamo visti dal cliente, perché noi siamo in parte una società che offre un prodotto tecnologico, in parte siamo un consulente, in parte siamo un partner commerciale. Quindi queste tre visioni permettono di offrire tre proposizioni commerciali diverse che vediamo che hanno, piacciono in maniera diversa a seconda di che business affrontiamo. Molto bene, Federico, grazie, in bocca al lupo anche ai tuoi tre soci. Grazie, crepi il lupo. Adesso parliamo di traduzioni, cioè traduzioni dall'inglese all'italiano, dal francese al russo, e parliamo di come la tecnologia ha cambiato questo settore. David Orban è tornato a trovarci, è docente alla Singularity University ed è Chapter Ambassador di Singularity U Milan, che è il capitolo uno dei capitoli italiani di Singularity University, e nonché fondatore di DotWords, che si occupa proprio di traduzioni, di localizzazioni. David, bentornato 2024. Grazie Enrico. A proposito di localizzazione vuol dire in pratica traduzione da una lingua ad un'altra per calare un contenuto all'interno di un contesto locale. Allora, cerchiamo un po' di capire cosa è cambiato nel mondo delle traduzioni e quanto più facile, più semplice oggi le macchine rendono questo fenomeno che in parte è obbligatorio per comunicare, per commerciare prodotti in giro per il mondo. La localizzazione è proprio l'attività che negli ultimi 20-30 anni è nata dalla mera traduzione. Se una volta era sufficiente appunto pensare a come tradurre il testo, oggi abbiamo video online, app, l'aiuto contestuale, e dobbiamo anche pensare come nomi, marchi, slogan, pubblicità coordinata per un lancio su un intero continente, magari appunto in Europa, devono essere affrontate in modo professionale. Quindi sicuramente gli strumenti che aiutano le società specializzate in questo campo si sono evolute proprio per mettere loro in grado di affrontare questo compito che è complesso, e senza l'aiuto di questi strumenti non sarebbero assolutamente in grado di farlo. Ci riesce a fare un esempio, anzi ci riesce di sicuro, allora faccio un esempio di come il mondo della traduzione è cambiato grazie all'aiuto dei computer. C'è un acronimo con cui tutti i nostri ascoltatori immagino più o meno saranno familiari, ed è il CAD, che sta per Computer Aided Design, progettazione assistita dal calcolatore. E uno dei più famosi prodotti CAD si chiama appunto AutoCAD, ed è uno strumento software utilizzato dagli architetti che non usano più il righello, non usano più strumenti manuali per progettare case, ponti o altre cose. E questo succede da un po' di tempo, diciamo? Sì, da 30-40 anni, evolvendosi man mano. E analogamente a questo, oggi esistono degli strumenti sofisticati che aiutano i traduttori e si chiamano CAT, Computer Aided Translation, quindi traduzione assistita dal calcolatore. Qual è la differenza tra le due categorie di software? Che mentre tu, architetto, fai il progetto della casa, per realizzarla poi il cantiere impiega operai che non mescolano più magari il cemento a mano, però tanti lavori ancora vengono fatti a mano, e il CAT è un po' come se gli operai in cantiere avessero l'esoscheletro fantascientifico che li fa lavorare 10 volte più rapidamente. Perché il CAT è utilizzato proprio dai traduttori che hanno una possibilità di farsi aiutare dal computer a lavorare più rapidamente, più affidabilmente, con maggiore qualità e coordinandosi al meglio all'interno di un team che quindi aggredisce il progetto con efficienza. Ti faccio due o tre esempi. Quando si lavora con una società che dice guarda, io devo vendere questo mio prodotto in 20 mercati diversi, è molto importante stabilire un glossario fin dall'inizio in modo che ci sia una coerenza di terminologia e tutte le sfumature vengano correttamente rese. Invece di affidarsi alla memoria dei traduttori di come questo glossario viene seguito, lo strumento CAT assicura questa coerenza. Parlando di memorie, l'altro esempio è quello delle cosiddette memorie di traduzione, translation memories. Queste sono fondamentali per accelerare il lavoro perché analizzano il testo e rompendo frasi intere in espressioni più piccole presentano al traduttore l'opportunità di riutilizzare traduzioni già fatte. E la provenienza di queste traduzioni può essere perfetta con un cosiddetto matching completo al 100% oppure con tecniche cosiddette di fuzzy matching, cioè di corrispondenza imperfetta, il traduttore comunque è una rampa di lancio per completare il lavoro. E ce ne sono tanti altri di strumenti di questo tipo, ma il loro insieme appunto fa sì che la soglia di disponibilità dell'insieme di questi servizi alle aziende si abbassi tantissimo. In termini soprattutto di tempo speso per la traduzione, quindi quanto tempo ci impiega un traduttore grazie all'aiuto del computer rispetto ad una traduzione, chiamiamola, tradizionale? Allora, alcuni compiti sarebbe proprio impossibili da eseguire. Oggi le strutture dei file sono molto complesse e i sistemi CAT permettono di guardare dentro questi file e quindi andare a sostituire le stringhe di testo a prescindere da dove sono e a prescindere da dove questi file nascono. Non basta più guardare un foglio stampato e diciamo realizzarne la versione nella lingua obiettivo. Quindi non è solamente questione di rapidità, è questione proprio che alcune cose altrimenti non si potrebbero fare. In ogni caso aumenta anche la rapidità, aumenta la qualità e le società migliori come anche DotWords trasferiscono questo valore al cliente, che quindi entra in possesso non solo di qualcosa di coerente e di alta qualità rapidamente, ma costituisce un proprio patrimonio di memorie di traduzione, per esempio, che in futuro potrà reimpiegare quando deve aggiornare il prodotto, il suo manuale, il lancio di una nuova versione, senza dover più partire da zero. Tu adesso hai parlato del mestiere del traduttore, queste tecnologie magari molto più semplici o semplificate possono essere utilizzate anche dai consumatori in alcune app che sono state lanciate ultimamente, cioè sono le stesse tecnologie? E i motori di traduzione oggi possono essere inseriti all'interno di diversi ambienti e sicuramente le più grandi società internet, Google, Facebook, Twitter ed altri, impiegano motori di traduzione sofisticati. È stato Google addirittura a creare una vera e propria rivoluzione nel campo. L'MIT, la famosa università di Boston, aveva un concorso anno in cui sfidava i diversi motori fra di loro. Ognuno di questi era basato sull'utilizzo delle regole grammaticali per arrivare a comporre la frase nella lingua obiettivo. Google invece, ignorando la tradizione, ha detto: ma io ho accesso a migliaia, milioni e ormai sono miliardi di frammenti di testo già tradotti nella lingua sia di origine che di arrivo. Perché non applico invece un approccio statistico in cui il motore di traduzione ignora le regole grammaticali, ma nonostante questo arriva a qualcosa che, fra virgolette, magicamente risulta intelligibile e che ha senso. E questo approccio, promosso dal direttore della ricerca di Google, Peter Norvig, che ha anche un testo sull'intelligenza artificiale proprio canonico, di grande riferimento, ha avuto un successo talmente prorompente da avere battuto in modo così definitivo i concorrenti a questi test dell'MIT, che hanno smesso di fare il confronto. Oggi l'approccio statistico è superiore a quello grammaticale, ma si è anche molto diffuso, appunto, non solo e di Google, ma anche di altri. Mia madre, per esempio, quando guarda i miei post su Facebook, dove scrivo quasi esclusivamente in inglese, visto così la distribuzione geografica dei miei contatti, può contare sulla presenza di un singolo pulsante su cui preme per leggere quello che io ho scritto in italiano e quindi tranquillamente può seguire le mie avventure. E così la stessa cosa è presente su Twitter. E con una concatenazione di tecnologie si può avere anche un dialogo in tempo reale, per esempio su Skype. Sì. Diciamo che la differenza tra l'approccio statistico e la conoscenza della grammatica, se facessimo un paragone utilizzando una persona fisica, è un po' come la differenza tra una persona che traduce conoscendo la grammatica e le regole, oppure una persona che va per simulazione copiando alcune frasi che ha sentito tradotte in un certo modo e le ritraduce così senza magari saper molto bene la grammatica. L'analogia che io ti farei è come un bambino impara a camminare. Se tu ti siedi con un bambino di un anno e dici guarda che devi alzare la gamba sinistra e poi porti avanti la gamba destra, stai attento a spostare il peso da uno all'altro eccetera, quello non imparerà mai a camminare. Se invece gli fai fare esercizio dopo esercizio dopo esercizio, la correzione progressiva dei movimenti otterrà il risultato. E l'approccio statistico corrisponde a questo secondo tipo di avvio, anche se in questi anni sta mostrando di aver raggiunto il proprio limite. Infatti, un bambino che ha imparato a camminare per tentativi non è probabile che diventi campione mondiale di salto con l'asta. Per arrivare al salto con l'asta deve cambiare di nuovo approccio, magari deve lavorare con un allenatore che gli mostri le tecniche da adulto o da teenager, adolescente, quando i suoi muscoli sono più forti. E così il campo dei motori di traduzione automatici è convinto che dalla rivoluzione dell'approccio statistico di Google oggi ci sia bisogno di una nuova rivoluzione per aumentare di nuovo la qualità delle traduzioni. I traduttori professionisti umani, infatti, oggi sono comunque nettamente superiori e assolutamente necessari per una traduzione professionale. Il mondo è strapienissimo di esempi di come i motori di traduzione possano causare danni. Quando un'azienda si affida nel portare avanti il proprio brand in tutto il mondo, non può oggi affidarsi esclusivamente al computer. Due esempi semplici. Io ho visto su YouTube un'intervista con un investitore, ho ancora la schermata conservata, molto fiero di quello che faceva, e la traduzione automatica di Google sotto diceva io sono l'investitore terrorista. Chissà perché, chissà come, questi sistemi raramente anche riescono a spiegare le ragioni dei loro strafalcioni. Un secondo esempio, altrettanto clamoroso e anche visibile su qualche meme di immagine su Facebook, ogni tanto ricompare, è il ristorante cinese il cui nome, reso con caratteri latini accanto agli ideogrammi, è motore di traduzione non disponibile. Simpatico. Evidentemente quando hanno fatto click il motore di traduzione non era disponibile e loro non l'avevano capito, hanno copiato e incollato quello che era scritto lì. E quindi è un po' come, non so, oggi ci sono tanti sistemi dove il computer affianca gli specialisti e li fa lavorare meglio, ma non li sostituisce. Così anche nel campo della traduzione professionale i sistemi automatici affiancano il professionista che comunque compie un lavoro assolutamente imprescindibile per i suoi clienti. Quindi potremmo dire che i sistemi automatici di traduzione vanno bene, benissimo in molti casi, per gli utenti, i navigatori della rete, tutti noi che usiamo le applicazioni per avere un'idea, ad esempio, di quello che tu hai scritto su Facebook se non conosciamo bene l'inglese, ma invece se dobbiamo fare un lavoro professionale, se dobbiamo fare una traduzione per business, non dobbiamo affidarci a questi sistemi, ma abbiamo bisogno di traduttori professionisti. A questo punto però ti faccio una domanda, visto che parliamo molto spesso di intelligenza artificiale e tra l'altro i temi legati all'intelligenza artificiale sono temi di cui si dibatte, si discute molto alla Singularity University e anche negli appuntamenti italiani della Singularity University, da questo punto di vista l'intelligenza artificiale non è ancora tanto intelligente. E in realtà lo è tantissimo, così come giocare a scacchi o giocare a Go, guidare una macchina, anche quello di capire il significato di un testo era una sfida per l'intelligenza artificiale negli anni 50, 60, 70, 80, e quello che riusciamo a fare oggi con i computer è sbalorditivo. Le dimostrazioni, e oggi sono presenti nei computer Microsoft Windows, del dialogo in tempo reale che si può avere tra una lingua e l'altra con Skype, per esempio, dove io parlo in inglese, Skype trascrive le mie parole in inglese, il motore di traduzione lo rende in cinese e una sintesi vocale lo pronuncia per la persona con cui sto avendo una conversazione, è letteralmente una scena da fantascienza. Quindi risultati fantastici. Ci saranno risultati tali da, fra virgolette, mettere in pericolo il lavoro di quello che oggi i professionisti della traduzione fanno? In realtà ci sono quelli che ritengono che sia così, cioè che non ci siano limiti al miglioramento delle prestazioni dei computer. Non c'è qualcosa che i computer prima o poi non riusciranno a fare. Sta quindi alla creatività e all'adattabilità umana, nonché quella delle nostre aziende, essere sempre all'avanguardia, approfittare di questi sistemi per fare di più. Ti faccio un esempio. Si stima che il 99% di tutto quanto viene prodotto oggi nel mondo in termini di media non è tradotto. E addirittura in America i film stranieri sono esclusivamente sottotitolati e mai doppiati. Creando una barriera, se vogliamo, artificiale al loro successo, perché va a finire che sono solo gli appassionati che vanno a vedere i film stranieri nei cinema, e questi si diffondono molto meno di quanto da noi si diffondono i film hollywoodiani, grazie all'industria del doppiaggio, che è enormemente maturo in Italia e in Europa in generale. Quando i computer potranno tradurre perfettamente, e quando i computer sapranno anche pronunciare o dare il contesto proprio con una recitazione, ci sarà un'esplosione di contenuti incredibili, con anche naturalmente forme d'arte nuove. E noi inventeremo metodi per approfittare di questo e di creare valore dappertutto, facendo leva sui computer che ci accompagnano nell'avventura. Senti, un'ultima domanda. Quando parliamo di, abbiamo fatto l'esempio di Skype, ad esempio, quindi di sistemi che traducono dalla voce, che possono essere anche voci registrate, quindi sistemi che traducono da un video, in realtà il computer, il sistema trasforma, grazie al riconoscimento vocale, quella voce in testo e la traduzione avviene sul testo È giusto questo passaggio? Sì, è proprio una concatenazione di diverse tecnologie e ci si può sbizzarrire veramente con tante altre cose. C'è per esempio, soprattutto all'interno dei social media, il cosiddetto sentiment analysis, cioè che cosa un particolare tweet esprime relativamente ad un brand, è un'emozione positiva o negativa. Una nuance, la sfumatura particolare delle parole nelle varie lingue cambia di tantissimo. Quando General Motors ha chiamato uno dei propri modelli di automobile Nova, in Messico non vendeva granché bene perché il nome di quell'automobile significava che la macchina non partiva nemmeno. Quando la CIA chiede aiuto ad aziende professioniste della traduzione di riuscire a star dietro ai social media in lingua araba, non si rende conto che l'arabo istituzionale non è molto diffuso e in tutto il bacino del Mediterraneo, nel Medio Oriente, vengono usate varianti molto diverse fra di loro, tra l'altro arricchite da un codice, uno slang che è molto molto complesso da decifrare per arrivare poi alla sostanza del messaggio, probabilmente neanche tanto minaccioso, immagino, nella stragrande maggioranza dei casi. E quindi ci sono veramente dei problemi interessantissimi che tengono occupati sia gli informatici che realizzano prodotti costantemente nuovi e migliorati, ma anche i professionisti del campo della traduzione sovrapporsi e l'arricchimento reciproco di questi due campi, di queste due professioni, è di grande valore sia per consumatori che per brand ed aziende. Prima di salutarti, diamo l'appuntamento ad un evento della Singularity University in Italia. Il 23 che cosa succede? Sicuramente una cosa molto originale, poi non so quanti accetteranno questo invito, però facciamolo l'invito. E ogni mese Singularity U Milan, il chapter di Milano della Singularity University, organizza un incontro. E l'incontro del 23 maggio presso The Fab Lab Make It Real in via Calabiana vedrà un tema particolare, impianti e biohacking. Parleremo di come la tecnologia sta trasformando il corpo o dando accesso per esempio a protesi sempre più sofisticate a costi ridotti attraverso la stampa 3D per coloro che ne hanno bisogno, oppure progetti più avanzati come l'iniezione di lenti computerizzate permanenti, che è un brevetto recente di Google, poi si vedrà quando si riuscirà a realizzare. In mezzo a questo c'è una sfida per i nostri partecipanti. Chi vorrà potrà in quel giorno farsi iniettare un impianto sotto pelle, un computer portatile che io ho già da un paio d'anni, quindi trasformarsi in un cyborg e vedere che cosa succede, cioè come questo impianto poi può essere usato in varie maniere in un ambiente sempre più computerizzato, tecnologico attorno a noi. Allora, a quelli che si domandano ma è sicura questa cosa, beh, tu ce l'hai già da forse più di un anno e non sei ancora morto. L'impianto è una piccola ampolla di vetro della dimensione di un chicco di riso, all'interno del quale c'è il circuito del computer senza batteria, che si sveglia e fa le proprie elaborazioni direttamente con l'energia dell'interrogazione, per poi rispondere con quello che deve rispondere. Apre porte, paga il caffè, la metropolitana, tiene la chiave privata di un borsellino Bitcoin nel mio caso. Quindi tante cose diverse e sempre più numerose. È alloggiato nei tessuti morbidi della mano, tra l'indice e il pollice tipicamente, e quindi è assolutamente protetto e non dà alcun fastidio. L'impianto stesso, l'operazione di impianto sarà eseguito da un professionista del piercing e corrisponde a quello di un buco alle orecchie. È un'iniezione che si fa con un ago già carico del invece di un liquido come normalmente, di questo chicco di riso di vetro. Bene, per mantenere un livello molto elevato di privacy, io non dirò mai se ce l'ho o non ce l'ho, così siamo tranquilli e sicuri. Davide, grazie per essere stato con noi, ti auguro un buon lavoro, a presto. Grazie a te. Chiudiamo qui questa puntata di 2024, questa è la versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Come sempre grazie per la vostra attenzione. Continuate a scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it e continuate anche a rispondere alla statistica, che è una pura statistica personale senza nessun intento di marketing complicato, proprio una pura curiosità del conduttore di 2024, e che per dirci come ascoltate la nostra trasmissione. Allora, devo anche rispondere ad alcuni ascoltatori che ringraziano lo staff. Purtroppo non c'è nessuno staff, qui fa tutto Enrico Pagliarini, nel bene o nel male, con tutte le responsabilità che ricadono sul conduttore, che realizza anche tutte le interviste in giro, spesso per Milano o poche altre città. Cerco sempre di garantire le interviste al microfono, non sempre ci si riesce, bisogna usare anche il telefono ovviamente per raggiungere altre persone, a volte magari ritardo qualche intervista proprio per evitare il telefono e aspettare che una persona passi da Milano, visto che se ti occupi di tecnologia ogni tanto a Milano ci devi passare, perché il mondo della tecnologia in Italia passa per la stragrande maggioranza dei casi nella città di Milano. Non solo, ci sono altre realtà molto interessanti. Tra l'altro ultimamente alcuni facevano notare che alcune exit, alcune startup che sono state comprate da investitori stranieri sono state comprate nell'area bolognese. Pizza Bo e anche Solair, la scorsa settimana ne abbiamo parlato, acquistata da Microsoft, era di Bologna. Insomma, ci sono alcune realtà interessanti a Torino, a Roma, in altre città che stanno crescendo molto bene, in Veneto, in alcune città, ma adesso non faccio la lista perché poi alcuni si offendono perché non sono stati citati nella lista. Ringrazio anche alcune persone di sesso femminile che mi hanno scritto, perché hanno ricordato che recentemente, dicevo, il 98%, secondo alcune analisi che sono state fatte sulle trasmissioni di Radio 24, dicevo, no, il 98% delle persone che ascoltano 2024 sarebbero, in base a queste ricerche, ma non sempre ci azzeccano le ricerche, sarebbero di sesso maschile, quindi un 2% invece femminile. Io spero che sia molto di più, quindi spero che questa classifica sia sbagliata. Probabilmente non è così poco, vabbè, speriamo. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre sulle nostre frequenze, quindi nella versione broadcast, venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:30, oppure se volete on demand con la radio personale, quella del futuro, via podcast sul nostro sito internet oppure attraverso le applicazioni. E anche qui bravi a quelli che continuano a rispondere alla domanda: che applicazioni utilizzate per riascoltare 2024? Appuntamento alla prossima settimana.